Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Otto gennaio 1996. Siamo nel settimo arrondissement di Parigi, Avenue Frédéric Leplay. In una stanza di una storica abitazione ufficio, in una dimensione intima e privata, un frammento importante della storia della Francia e dell'Europa intera sta svanendo. Al cospetto dei suoi cari c'è un uomo sofferente che sta esalando i suoi ultimi respiri. Stringendo la mano della moglie Danielle, si spegne quello che molti hanno definito l'ultimo re di Francia, François Mitterrand. François Mitterrand. Buongiorno, edizione straordinaria del telegiornale di France 2 per annunciare, con grande malinconia, la morte di François Mitterrand. L'ex presidente francese si è spento poche ore fa nel suo ufficio abitazione di Parigi, all'età di 80 anni. Sono le 8:36, quando una delle reti nazionali francesi dà l'annuncio della morte di François Mitterrand, presidente francese dal 1981 al 1995. Poche ore dopo, il suo successore all'Eliseo, Jacques Chirac, appare in televisione per un messaggio ai francesi. È uno degli storici rivali di Mitterrand. In televisione, però, mostra un volto tirato, come paralizzato dalla commozione. Signori compatrioti, il presidente François Mitterrand è morto questa mattina. I francesi hanno appreso con emozione la notizia della scomparsa di chi li ha guidati per 14 anni. Vorrei salutare la memoria dell'uomo di Stato, ma anche rendere omaggio all'uomo nella sua ricchezza e nella sua complessità. La mia situazione è singolare, perché ero l'avversario del presidente François Mitterrand, ma ero anche il suo primo ministro e oggi sono il suo successore. Tutto ciò ha tessuto un legame particolare, fatto di rispetto per l'uomo di Stato e di ammirazione per l'uomo privato, che si è battuto contro la malattia con un coraggio ammirevole. Della relazione con lui, relazione contrastata, ma di lunga durata, mi rimane la forza del coraggio, quando è sostenuta dalla volontà, la necessità di rimettere l'uomo al centro di ogni progetto, il peso dell'esperienza. Conta alla fine solo quello che l'uomo è nella sua verità e solo quello che l'uomo può fare per la Francia. Chirac annuncia una grande manifestazione alla Bastiglia, organizzata dai suoi avversari, il Partito Socialista di Mitterrand, e sancisce un giorno di lutto nazionale. Da tutto il mondo arrivano messaggi di simpatia, di stima, di amicizia per l'ex presidente della Repubblica. La Francia si scopre sgomenta, quasi fosse diventata orfana senza l'uomo capace di traghettarla fuori dal gollismo. Forse, più semplicemente, si è spento, con le sue luci e le sue ombre, uno degli ultimi grandi del XX secolo. La casa dove Mitterrand si è spento diventa rapidamente meta di un ininterrotto pellegrinaggio. Migliaia di cittadini anonimi, la generazione Mitterrand, vi si recano per dare l'estremo saluto a François Mitterrand. Arrivano con una rosa rossa in mano e la depongono sul marciapiede. Molte lacrime, molti singhiozzi. Giovedì 11 gennaio è il giorno dei funerali, due cerimonie religiose. A Jarnac, il paese natale di Mitterrand, e a Parigi, nella cattedrale di Notre-Dame. Nella capitale giungeranno tutti i grandi del pianeta, Clinton, Yeltsin, Major, Cole. Per l'Italia, il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Il rito solenne sarà celebrato dal cardinale Lustiger, arcivescovo di Parigi. Tutte le bandiere del paese sono a mezz'asta, in tutte le scuole si osserva un minuto di silenzio e il ministro della pubblica istruzione, François Bayrou, ha invitato i professori a ricordare la figura di François Mitterrand, il suo percorso politico, il suo impegno per la Francia e nello stesso tempo per l'Europa unita. Solo poche ore prima la piazza della Bastiglia si era riempita di gente per la manifestazione indetta dai socialisti. Musiche di Mozart e di Beethoven, secondo le ultime volontà di François, e decine di migliaia di persone commosse ad ascoltare il discorso di Jospin. Impossibile non andare con la memoria a 15 anni prima, quando quella stessa piazza aveva visto gli interminabili festeggiamenti per la vittoria presidenziale. Era il 10 maggio 1981. Allora, ci dicono che possiamo dare in tempo reale il nome del Presidente della Repubblica. È domenica 10 maggio 1981, secondo turno dell'elezione presidenziale. Stiamo vivendo insieme un momento decisivo. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. François Mitterrand è il presidente della Repubblica. Questo l'annuncio della televisione nazionale in quel maggio francese del 1981 che apre un'epoca. Pochi minuti dopo, François Mitterrand pronuncia le prime parole da presidente. I risultati che mi sono stati comunicati annunciano che i francesi hanno deciso di scegliere il cambiamento che ho loro proposto. Questa vittoria è innanzitutto la vittoria delle giovani forze di lavoro, di creazione e rinnovamento, che si sono riunite in un grande slancio nazionale per l'impiego, la pace, la libertà, temi che sono stati quelli della mia campagna presidenziale e che rimarranno i temi del mio settennato. E anche la vittoria di quelle donne, di quegli uomini, umili militanti, pieni di ideali, che in ogni comune di Francia, in ogni città, in ogni villaggio, hanno sperato nel giorno in cui il loro paese si sarebbe avvicinato alle loro esperienze. A tutti io devo l'onore e il carico di responsabilità che ormai mi competono. Io non faccio distinzioni tra i cittadini francesi, tra avversari e sostenitori. Per me sono tutti il nostro popolo e null'altro. Non ho altra ambizione che quella di ripagare la fiducia di chi mi ha votato e conquistare quella di chi non lo ha fatto. François Mitterrand è il primo presidente di sinistra della controversa storia politica francese. È sulla scena politica da diversi anni, ma in quella corsa elettorale è riuscito a coagulare intorno a sé un consenso popolare mai visto prima. I motivi vanno ricercati in molteplici aspetti. Il primo riguarda la sua storia, una vicenda forte, avventurosa e rigorosa, una vicenda profondamente francese. Nato nel 1916, Mitterrand è figlio di un capostazione diventato imprenditore in seguito all'eredità dell'attività di produttore di aceto avviata dal suocero. L'ambiente in cui cresce François Mitterrand è al tempo stesso provinciale e borghese. La famiglia ha forti radici cattoliche, tanto che lo stesso François, fino alla drammatica esperienza della Seconda Guerra Mondiale, rimarrà legato alla tradizione cattolica. Negli anni dell'università, a Parigi, milita in organizzazioni di destra, come l'Action Française, da cui prenderà nettamente le distanze in seguito. Dopo essersi laureato in legge, nel 1937, Mitterrand svolge tra il 37 e il 39 il servizio militare nella fanteria coloniale. Nel settembre 1939, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, è nominato sergente e viene inviato sulla linea Maginot in prossimità di Montmédy. L'esperienza durante la Seconda Guerra Mondiale lo segna profondamente. Nel 1940 viene fatto prigioniero dai nazisti e messo in un campo di prigionia. Qui ha a che fare con decine di sfortunati prigionieri delle classi sociali più diverse. Il suo pensiero politico si forgia e si fortifica, prendendo la strada dell'internazionalismo socialista. Dopo essere riuscito a evadere nel 1941, diventa una figura di spicco del governo di Vichy e contemporaneamente un elemento cardine per la lotta partigiana. Quando però nel 1944 la Francia si riprende i territori occupati, tra cui la capitale Parigi, viene progressivamente estromesso sul piano politico, in quanto troppo distante dalle linee guida dettate da Charles de Gaulle. Ma questa sua forte identità francese, costruita anche attraverso la lotta partigiana, fortificherà nel tempo la sua immagine. La lunga carriera politica di François Mitterrand inizia nel 1946, anno in cui viene eletto all'Assemblea nazionale come deputato del Dipartimento della Nièvre. Negli anni della Quarta Repubblica viene nominato ministro degli ex combattenti dal 47 al 48, ministro dei territori d'oltremare dal 50 al 51, ministro degli interni dal 1954 al 55 e infine ministro della giustizia dal 1956 al 1957. Un cursus honorum di tutto rispetto che lo impone come figura di riferimento della sinistra francese, dalla quale spesso si distacca, prendendo posizioni indipendenti. Ad esempio, è favorevole all'intervento armato per sedare la rivolta indipendentista dell'Algeria, Quando proprio in occasione del conflitto algerino nasce la Quinta Repubblica, con un sistema presidenziale più forte, si scontra più volte con Charles de Gaulle, al quale contende la presidenza della Repubblica nel 1965, come candidato della sinistra non comunista. Perderà. Nel 1971 è ormai leader del rinnovato Partito Socialista. Con il sostegno dei comunisti si ricandida contro Giscard d'Estaing nel 1974. Perde per pochi voti. Per le elezioni del 1981 decide di ricandidarsi. Questa volta deve vincere. I tempi sono maturi. Mitterrand però, uomo colto, raffinato, attento osservatore dell'opinione pubblica, abile comunicatore, capisce che senza una particolare e moderna attenzione agli apparati di comunicazione, l'Eliseo potrebbe sfuggirgli anche questa volta. Ritengo che la politica moderna sia anche comunicazione. Saper arrivare alla gente, ai loro cuori. Essere in grado di trasmettere con il linguaggio giusto le proprie idee, le proprie convinzioni. Uscendo dalla torre d'avorio di un linguaggio ai più incomprensibile. Questa, secondo me, è la politica oggi. Il y aura un bal très pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera l'orgue de barbarie. Cette ère pour nous sera le plus beau, le plus joli. Su questa visione molto moderna e realistica della politica si innesta l'incrocio con una figura che si rivelerà determinante per François Mitterrand, un vero e proprio stregone della comunicazione. Voici le produit libre. Qualche anno fa, un sondaggio condotto da un noto magazine francese ha stabilito che per la maggior parte dei cittadini transalpini lo slogan che avete appena sentito è il miglior slogan della storia della pubblicità, in quanto simbolo della miglior campagna pubblicitaria di sempre. Si tratta dei cosiddetti prodotti liberi, lanciati da Carrefour nel 1976. Prodotti senza marca, di buona qualità, a prezzi bassi, che la catena di grandi supermercati francesi decide di mettere sul mercato. Nascono il caffè caffè, l'olio olio, l'acqua acqua. Diventano rapidamente i prodotti più venduti in assoluto, fino a diventare una sorta di moda. Si ribalta il concetto di marca. L'elemento da ricercare, infatti, non è la griffa, ma proprio la sua assenza. L'artefice di questo ribaltamento è il più provocatorio e istrionico pubblicitario francese e anche il nostro secondo personaggio di oggi, Jacques Séguéla. Jacques Séguéla. Una buona regola della pubblicità, la prima che ho imparato, creare l'avvenimento ed essere elementari. Si dice che questa regola, Séguéla, l'abbia stabilita dopo il suo primo lavoro come pubblicitario. Siamo nel 1969. Séguéla ha da poco fondato con Bernard Roux, esperto di economia e marketing, la sua agenzia pubblicitaria. Per oltre un anno clienti non se ne fanno vivi. Il primo utente è la Mercury, ditta di motori per imbarcazioni. Per la pubblicità, Séguéla pensa bene di recuperare dagli archivi della rivista François una vecchia foto di Georges Pompidou, che nel 1969 è presidente della Repubblica in carica, mentre guida un motoscafo dotato di fuoribordo Mercury al largo di Saint-Tropez. Sotto la foto, Séguéla mette il claim «Grazie, signor presidente, di prendersi cura della sua sicurezza», firmato Mercury. La pubblicità sarebbe dovuta uscire solo sull'Express e all'epoca il presidente francese riceveva una copia di questa rivista con 48 ore di anticipo. La reazione di Pompidou, involontario testimonial, non è delle migliori. All'Express si vedono costretti a strappare a mano, da 600.000 copie, la pagina pubblicitaria incriminata. Ma la notizia trapela e fa subito il giro della Francia. Così sia l'Express che la Mercury, senza ulteriori mosse e spese, hanno un'impennata delle vendite. Séguéla, nato nel 1934 a Parigi, si è in realtà laureato in farmacia per assecondare il volere del padre. Da subito estroso ed eccentrico, sale alla ribalta per la prima volta nel 1958, quando parte con la sua Citroën due cavalli per il giro del mondo, esperienza lunga un anno e 120.000 km al volante. Quando torna, pubblica un libro, La Terre en Rond. Ci si aspetterebbe un racconto esaltante di questa esperienza, invece è tutto il contrario. Appena partito, non vedevo l'ora di ritornarmene a casa. La mia sola preoccupazione, arrivando in una capitale, Non era certo quella di visitare i suoi capolavori, ma di trovare un lavoro che mi fornisse il denaro necessario per lasciarla al più presto. Dopo aver fondato l'agenzia Rue Segelat, dopo il primo successo per Mercury, arrivano in rapida successione altre prestigiose collaborazioni. Nel 1972, ad esempio, convince Salvador Dalí a realizzare un dipinto per reclamizzare la Tour Totem, un grattacielo residenziale situato nel quartiere Front de Seine di Parigi. Il vero successo, però, arriva con i Produits Livres di Carrefour. Da lì parte un'ascesa inarrestabile che non può non ingolosire la politica. Il primo incontro con François Mitterrand avviene nel 1977. Il futuro presidente lo contatta per realizzare un manifesto del Partito Socialista, nulla di più. Segelat, nel frattempo, cura per breve tempo l'immagine di Jacques Chirac, neogollista di destra e grande avversario di Mitterrand. Il pubblicitario non si fa scrupoli. Non gli interessa tanto il cosa deve comunicare, ma semplicemente il come. Il mio unico campo è quello della comunicazione. Un pubblicitario è un microfono, è solo l'amplificatore dei messaggi che gli vengono affidati. Lo stesso microfono può servire oggi uno, domani l'altro. Quando nel 1979 esce il libro «Non dite a mia madre che faccio il pubblicitario, lei mi crede pianista in un bordello», testo in cui Segelat espone la sua filosofia pubblicitaria, Mitterrand si convince che lui può essere l'uomo giusto per la sua campagna elettorale vincente. Risulterà in qualche modo vincente per entrambi. Destini incrociati. François Mitterrand è stato uno dei più grandi uomini politici europei del secondo dopoguerra. Protagonista della scena francese sin dagli anni 50, vive il momento più alto quando nel 1981 riesce a diventare presidente della Repubblica Francese, la cosiddetta Quinta Repubblica. È il primo presidente socialista della storia transalpina. La vittoria elettorale è raggiunta grazie alla collaborazione con il più istrionico, provocatorio ed estroso pubblicitario ed esperto di comunicazione francese, Jacques Segelat. Quando Mitterrand mi presentò al partito, disse fuori dai denti: «Ecco a voi il miglior pubblicitario che io conosca, ma anche il peggior uomo politico che abbia mai incontrato». E ne ho frequentati molti. La collaborazione tra i due si basa su un assunto molto chiaro per entrambi. Il politico fa il politico e segue le direttive che il suo spin doctor gli indica. Segelat, dal canto suo, non può e non deve pronunciarsi su programmi e contenuti dei discorsi. Uno si occupa del cosa, l'altro del come. Compiti rigidamente separati. Un candidato politico deve sapere come parlare, ma anche come stare zitto. Vendere politica è come vendere dentifricio, ma al momento è molto più facile, poiché il 60-70% dei francesi va a votare, mentre solo il 20% si lava i denti. La prima tappa della comunicazione elettorale ideata da Segelat è lo slogan «La force tranquille», «La forza tranquilla». Questo è il motto della campagna di Mitterrand. Migliaia di cartelloni invadono la Francia. Mitterrand, viso rilassato e sorridente in primo piano, il cielo chiaro sullo sfondo, la chiesa di un paesino sereno alle spalle e le tre parole sotto. L'avversario Giscard d'Estaing, presidente uscente, favorito fino a qualche mese dall'inizio della campagna elettorale, vede il suo margine erodersi progressivamente. Segelat considera i politici come delle marche e riserva loro lo stesso trattamento riservato in passato alla Citroën o al Club Med, inventando slogan vincenti sul modello pubblicitario. Inoltre, Segelat tratta i politici seguendo il metodo che l'industria cinematografica hollywoodiana ha sviluppato per costruire l'immagine dei suoi attori più importanti. Secondo Segelat, ogni marca, per affermarsi sul mercato, ha la necessità di trasformarsi in una star, ovvero di diventare affascinante come i divi del cinema americano. Questi devono a loro volta il loro successo alla capacità di dare vita a una combinazione ottimale di tre componenti. La prima è il fisico e si basa sulle caratteristiche anatomiche del corpo. La seconda è il carattere, cioè la personalità profonda dell'individuo. La terza, infine, è lo stile e riguarda le modalità attraverso le quali ci si presenta agli altri. Un politico, dunque, per Seghelà, esattamente come una marca, deve mirare ad essere una star simile ai divi di Hollywood. E per riuscire a ottenere questo risultato, ha la necessità di sapere rendere uniche le tre principali componenti della sua identità. Esistono delle regole identiche per qualsiasi paese e per qualsiasi periodo. La prima regola è che si vota per l'uomo e non per il partito. Dunque, il partito deve accettare di mettere avanti l'uomo scelto. La seconda è che si vota per un'idea e non per un'ideologia. Non si vota per la destra o per la sinistra, sono cose senza senso oggi. Si vota per il progetto che porta l'uomo politico e non per i programmi politici che lo sorreggono. La terza regola è che si vota sempre per il futuro e mai per il passato. Gli uomini politici perdono tempo sui bilanci difendendo il loro passato, non sanno immetterci verso il futuro mostrandoci come sarà il domani. L'ultima regola che riassume tutto è che viene eletto l'uomo che riesce a raccontare al proprio popolo il pezzo di storia che desidera farsi raccontare in quell'istante preciso della sua storia, a patto di essere un eroe credibile. Ogni elezione è simile ad una drammatizzazione portata dalla stampa insieme alla pubblicità. Se non si descrive una storia autentica, sincera e vera, se non suona la musica sociologica del momento nella quale ognuno può riconoscersi e sapere che l'uomo che ha davanti sarà l'uomo che domani creerà un mondo migliore per lui e per i suoi figli, non ci sono elezioni possibili. Il tandem è praticamente perfetto. Mitterrand dimostra fermezza, grande pacatezza nei dibattiti, trasmette sicurezza e serenità. Seghelà ne escogita di tutti i colori. Fa fotografare e riprendere Mitterrand in contesti e situazioni presidenziali per comunicarne e rafforzarne l'immagine vincente. Fa comporre canzoni per coinvolgere i giovani. Conia l'espressione «generazione Mitterrand» per indicare le generazioni più fresche, desiderose di cambiamento e legarle a doppio filo al suo candidato. Come aveva imparato anni prima, poi, sfrutta al meglio anche censure e divieti. Talvolta esagera volutamente per farsi bloccare dalle istituzioni, per far sì che i media, gratuitamente, parlino della campagna di Mitterrand amplificando e veicolando il messaggio iniziale in maniera quasi involontaria. Insomma, Seghelà, dove necessario, gioca d'azzardo. Un passaggio determinante è costituito dai confronti televisivi preparati da Mitterrand e Seghelà con scrupolosa meticolosità. Nulla viene lasciato al caso, tanto che il suo avversario, Valéry Giscard d'Estaing, appare sfiduciato, spento, come rassegnato. Nell'ultimo confronto televisivo ripete più volte a Mitterrand che gli sembra abbia perso la sua forza tranquilla, non facendo altro che ripetere in questo modo il suo slogan vincente. Seghelà è anche il primo a suggerire a un politico di sintetizzare il proprio programma per punti. Nascono i 110 propositi, un elenco rigoroso di principi cui il futuro presidente intende ispirare la propria azione di governo. Se un uomo politico vuole farsi eleggere, bisogna che la gente possa conoscere le sue proposte e la pubblicità è la migliore tecnica che sia stata inventata per comunicare. È il metodo più rapido e concentrato per comunicare. Bisogna invece prestare attenzione alle manipolazioni della pubblicità. Sono profondamente contrario alle campagne americane comparative che sfruttano milioni di dollari non per comunicare ciò che pensa il candidato, ma per distruggere il pensiero dell'altro candidato. La Costituzione di ogni democrazia dovrebbe interdire questo tipo di pubblicità. Penso che ci sia la necessità di un'etica estremamente severa. Quando si diventa consigliere in comunicazione politica, non bisogna mai accettare di mettere quest'arma assoluta nelle mani di un uomo che non sia democratico. Gheddafi mi chiese di essere il suo pubblicitario, offrendomi $1 milione l'anno per 5 anni. Avrei fatto fortuna, ma anche per $100 milioni non avrei stretto la mano di Gheddafi. Kurt Waldheim, quando era presidente dell'Austria, volendosi ripresentare, mi chiese di essere il suo pubblicitario, ma per niente al mondo lo sarei stato. Al primo turno, però, Giscard d'Estaing risulta ancora in testa, seppure con un margine molto esiguo, 28,32% contro 25,85% di François Mitterrand. Gli elettori di Jacques Chirac, presentatosi come alternativa di centrodestra a Giscard d'Estaing, e quelli del comunista Marchais, risulteranno decisivi. La macchina di Séguéla si rimette in moto per i ballottaggi. Il risultato alla fine è nettamente a favore di Mitterrand, con il 51,76% dei consensi, e il primo e al momento unico presidente socialista della storia francese. Dopo due tentativi falliti, grazie all'incontro con Séguéla, Mitterrand ce l'ha finalmente fatta. Il 21 maggio 1981 apre il suo settennato con una cerimonia al Panthéon di Parigi, durante la quale rende omaggio ai suoi modelli politici. Séguéla assiste attento tra il pubblico. I due rimangono amici, in ottimi rapporti, anche se la loro collaborazione si interrompe. Tuttavia, per entrambi, quell'esperienza risulterà determinante, perché da un lato Mitterrand farà tesoro del metodo Séguéla anche negli anni successivi, tenendo ben presente uno dei tanti ammonimenti del pubblicitario. Nessun metodo dispensa dall'essere intelligenti. Mai. Dall'altro lato, Séguéla vede ulteriormente decollare la sua carriera, cercato anche da numerosi altri politici che gli chiedono di curarne la campagna elettorale. Accetterà di farlo, seguendo vie del tutto inattese. Destini incrociati. François Mitterrand e Jacques Séguéla. Grande politico il primo, grande pubblicitario e spin doctor il secondo. Si incontrano e cambiano il corso della storia francese, quando nel 1981 insieme riescono a conquistare l'Eliseo. Mitterrand diventa il primo e unico presidente di sinistra della storia francese. Il primo settennato di Mitterrand è segnato da importanti trasformazioni sul piano sociale. L'abolizione completa della pena di morte, numerosi provvedimenti in sostegno dei lavoratori e delle classi meno abbienti, la controversa dottrina Mitterrand. Il presidente francese, però, all'inizio del 1982, scopre di avere un tumore alla prostata. Terrà nascosta la malattia per i 14 anni dei suoi due mandati, affrontandola con lo spirito combattivo e indomito che lo contraddistingue. Per quanto riguarda Séguéla, un anno dopo il successo della campagna Mitterrand, esce il libro Hollywood lava più bianco, in cui l'obiettivo è di prendere le distanze dal modo di fare pubblicità degli americani e lanciare il nuovo pensiero pubblicitario latino. La Passion Why al posto della Reason Why. La campagna pubblicitaria per Mitterrand, inoltre, rappresenta un momento cruciale nella carriera di Séguéla, considerato una sorta di mago delle elezioni. Negli anni a seguire, infatti, cura numerose campagne elettorali, in particolare nelle giovani democrazie dell'Est Europa all'indomani del crollo sovietico. Ne vince un buon numero e diventa decisamente più selettivo nella scelta dei clienti. Una buona campagna elettorale non può far eleggere un cattivo candidato, anche se io lavoro sodo. La pubblicità politica, dopo la collaborazione con Mitterrand, assume per Séguéla una componente etica molto più marcata rispetto alla pubblicità commerciale, facendogli apparire necessario puntare su alcuni valori importanti e venire incontro ai bisogni della gente. Anche se la pubblicità da sola non è in grado di far vincere un candidato, di sicuro dà un contributo importante, perché spesso essa rappresenta il modo migliore per comunicare un'idea, per far conoscere e far comprendere facilmente e rapidamente un programma a un grande numero di persone. Un riconoscimento importante a Séguéla arriva parallelamente proprio da Mitterrand. Jacques Lang, infatti, il super ministro della cultura del presidente francese, in piena sintonia con Mitterrand, approva la creazione di un musée de la publicité in un'ala del Louvre, coinvolgendo nell'allestimento proprio lo stesso Séguéla. È importante rilevare come in Francia per molto tempo attori e registi importanti si siano rifiutati di fare pubblicità, ritenuta un'arte poco nobile. Jacques Séguéla è stato il primo nel suo paese, traendo ispirazione dal mondo americano, a tentare di modificare tale mentalità. Egli ha sempre sostenuto che la pubblicità sia un nobile miscuglio di altre arti e come tale meriti rispetto e riconoscimento. All'inaugurazione del museo, però, Séguéla preciserà con la solita ironia che nessuno dei suoi annunci varrà mai quanto un Picasso. La pubblicità e il consumo non sono altro che specchi dei popoli. In questo fine secolo l'uomo ha voluto lasciare il suo stato di oggetto per diventare soggetto, ha voluto partecipare ad ogni livello, culturale, economico, politico. Oggi, se ci sono così tante visite ai musei, è perché la gente vuole toccare con mano le opere d'arte. Ieri la cultura era libresca, oggi è diventata sensoriale e si tocca con un dito. Più si andrà avanti e più l'uomo diventerà reattivo e fatalmente la comunicazione e il consumo andranno di pari passo. La grande lungimiranza e l'eclettismo di Séguéla gli consentono di stare al passo coi tempi e di rimanere sulla cresta dell'onda fino ai giorni nostri, continuando almeno in parte a vivere di rendita da quell'esperienza straordinaria accanto al grande Mitterrand. Da qui a 30 anni la gente vivrà principalmente a casa, visto che per il 2020 un acquisto su due si farà a casa e che un impiego su due sarà a casa. Le persone lavoreranno metà del tempo di oggi. La settimana lavorativa sarà di 3 giorni. L'individuo avrà 2 stati, quello della consumazione passiva a casa e uno stato nomade dell'uomo. L'individuo circolerà sempre più, saltando le frontiere che tra l'altro saranno abolite. Andrà a strofinare il proprio cervello con quello degli altri e raccoglierà una curiosità nuova venuta da altrove. Penso che il tempo che arriva, dopo un 20° secolo molto sedentario, sarà un grande tempo di nomadismo e che finalmente si ritroverà l'inizio dell'umanità, visto che l'uomo ha cominciato nomade. Il grande presidente francese, l'ultimo re di Francia, come è stato definito, lottando contro la sua malattia, rimane in carica fino alla fine del suo secondo mandato, fino al maggio del 1995. Il suo operato è ancora oggi oggetto di dibattiti accesi, ricco di luci e oscurato dall'ombra di qualche personalismo di troppo. Certo che François Mitterrand è uno dei grandi uomini del Novecento. Personaggio di caratura assoluta, nobile esponente di una classe politica in via di estinzione, dotata di un senso dello Stato straordinario. E se Jacques Séguéla, alla sua maniera, ha contribuito a fare di lui un divo, senza dubbio, come scrive Séguéla stesso nella dedica di uno dei suoi ultimi libri, anche Mitterrand ha reso il suo spin doctor una vera celebrità. A François Mitterrand, che ha fatto più pubblicità a me di quanto io ne abbia fatta a lui. No! Ni le bien.